Minerva. Approfondimenti culturali quotidiani. Perché la cultura serve a non servire. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Radio Città Fujiko 103.1 FM e bentornati e bentornate in questa nuova puntata di Minerva. Iniziamo con qualche minutino di ritardo perché sono le 12.33, ma siamo sempre presenti per questa mezz'oretta di diretta insieme, appunto da mezzogiorno e mezza fino alle 13, per parlare come sempre di cultura con nuove interviste, nuovi approfondimenti culturali, con la nostra agenda degli appuntamenti e ovviamente con tanta musica. E partiamo subito, come sempre, come mi piace fare, con i contatti con i quali raggiungerci. E partiamo dalla bella notizia di oggi, che il nostro sito www.radiocittafujiko.it finalmente torna ad essere attivo. Quindi visitatelo, condividetelo, andate appunto a dargli una sbirciatina, perché finalmente siamo tornati attivi, quindi rinizieremo a pubblicare di nuovo tutte le nostre interviste, tutti i nostri approfondimenti e contenuti lì sul nostro sito. Nel frattempo potete anche seguirci sui canali social, quindi Facebook, Instagram e il canale YouTube e anche Twitter. Anche lì siamo sempre molto attivi e condividiamo tutto ciò di cui parliamo in diretta qua sulle frequenze 103.100. Ma se invece volete raggiungerci ancora da più vicino, chiederci qualche cosa da ascoltare sulle nostre frequenze, raccontarci come sta andando questa vostra mattinata, scriveteci al 333 180 9494. Io sono qui e leggerò tutti i vostri messaggi. E nel frattempo andiamo anche un po' a vedere di che cosa parleremo in questa puntata di oggi, quindi andiamo a dare una sbirciatina al menù della puntata di oggi, lunedì 25 gennaio. Oggi torniamo a parlare di Kinodromo. Quindi ormai lo sapete, ne parliamo più o meno tutti i lunedì, perché ogni lunedì loro dedicano un appuntamento appunto settimanale a un tema diverso, quindi a un film diverso, un documentario, un cortometraggio, ogni settimana che cambia. E in occasione della giornata della memoria prevista per il 27 gennaio, quindi fra qualche giorno, Kinodromo dedica il suo appuntamento settimanale al tema della memoria come processo di rielaborazione del trauma intimo, familiare e storico, con il film che poi in realtà è una sorta di documentario dal titolo Memorie di Danilo Monte. I responsabili della programmazione di Kinodromo sono Giulia Silano e Andrea Pedrazzi, e io ho parlato proprio con lui, di nuovo con Andrea Pedrazzi, che ritroverete quindi di nuovo la sua voce qui su Radio Città Fujiko, che ci ha raccontato questo film, di cosa parla Memorie, perché è avvenuta la scelta proprio di questo documentario e come si realizzerà la serata di oggi lunedì 25 gennaio. La proiezione, come sempre, sarà possibile grazie alla collaborazione con la piattaforma OpenDDB, distribuzioni dal basso. Sarà preceduta e anche seguita dall'incontro in diretta streaming moderato da Paolo Marzoni, Andrea Pedrazzi e Giulia Silano, con appunto il regista Danilo Monte e il protagonista Roberto Monte. E queste sono un po' tutte le informazioni iniziali, e oltre ovviamente al nostro approfondimento, alla nostra intervista ad Andrea Pedrazzi di Kinodromo, ci sarà anche la nostra solita agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi che si terranno proprio oggi, lunedì 25 gennaio. Ma continuiamo a parlare della giornata della memoria non solo tramite Kinodromo, ma anche attraverso la musica, perché la realtà macabra della Shoah è stata trattata in uno dei migliori modi possibili da Rush nella loro canzone Red Sector A. La canzone si ispira sicuramente appunto alla realtà tremenda dei campi di concentramento, i cui contesti erano stati chiariti proprio dalla madre di Geddy Lee, che è stata purtroppo presente in quel periodo, in quelle situazioni e condizioni. In realtà questo brano non parla solo di questi argomenti, perché le immagini evocate dall'ascolto del brano potrebbero certamente applicarsi anche ad un qualsiasi altro contesto di prigionia. Ad esempio, anche il titolo della canzone rimanda ad un'area di lancio della NASA, quindi che non ha proprio a che fare con la giornata della memoria e come viene trattata appunto la Shoah e la storia dei campi di concentramento. Comunque è una canzone che come dire, ci può aiutare a continuare a parlare di questa giornata della memoria appunto anche attraverso la musica. La canzone è del 1984 ed è presente nell'album Grace Under Pressure e noi ce l'andiamo a sentire adesso. questi erano i Rush con Red Sector A, che ci riportano in diretta su Radio Città Fujiko per continuare a parlare insieme della giornata della memoria prevista per il 27 gennaio, quindi fra due giorni, e per parlarne appunto insieme attraverso sia la musica dei Rush che anche i film e i documentari. Infatti lo faremo proprio grazie a Kinodromo, questa associazione di film e documentari, questa associazione che promuove, scusate, la visione di film e documentari indipendenti, che proprio oggi dedica il suo classico appuntamento settimanale del lunedì al tema della memoria come processo di rielaborazione del trauma intimo, familiare, storico, e lo fa attraverso il film documentario Memorie di Danilo Monte. I responsabili della programmazione di Kinodromo sono Giulia Silano e Andrea Pedrazzi, e io proprio con quest'ultimo, quindi con Andrea Pedrazzi, ho avuto il piacere di parlare ancora una volta, e ci ha raccontato Andrea come è avvenuta la scelta di questo film tra tanti che comunque trattano il tema della memoria e della Shoah. Ci ha raccontato appunto perché è stato scelto proprio questo film, di che cosa parla. Io non vi voglio anticipare troppo. Comunque la proiezione, come sempre, sarà possibile grazie alla collaborazione tra Kinodromo e la piattaforma OpenDDB, quindi distribuzioni dal basso. Sarà anche proceduta e seguita dall'incontro in diretta streaming, quindi sia prima che dopo il film ci sarà un dibattito moderato da Paolo Marzoni, Andrea Pedrazzi e Giulia Silano, con il regista del film Danilo Monte e il protagonista Roberto Monte, che è appunto il fratello, se non sbaglio, del regista. Come vi dicevo, ho avuto il piacere di parlare con Andrea Pedrazzi, che ci ha raccontato ancora da più vicino questo appuntamento settimanale dedicato al tema della memoria, quindi direi di andare a sentire l'intervista a Andrea Pedrazzi. Sono al telefono con Andrea Pedrazzi del Kinodromo. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno, grazie mille ancora per questo invito. Nuovo appuntamento di Kinodromo, questa volta dedicato al giorno della memoria che si terrà il 27 gennaio. Di che cosa si tratta l'evento di oggi? Allora sì, stasera proietteremo il film Memorie di Danilo Monte, che sì, abbiamo scelto proprio per questa data a ridosso del giorno della memoria, che però tratta il tema in maniera molto particolare, perché non è un documentario, ma non è un documentario storico, non è un film che va ad analizzare quelli che sono stati gli eventi che hanno segnato questa tappa così tragica nella storia umana, ma è un film molto molto personale, che vede il regista stesso e suo fratello Roberto Monte intraprendere un viaggio verso il campo di concentramento di Auschwitz. È un documentario girato qualche anno fa. Questo viaggio è stato un regalo fatto dal regista stesso a suo fratello in occasione del suo 30° compleanno, e quindi diventa un pretesto per analizzare il loro rapporto insieme, molto contrastato, molto difficile anche, e quindi le memorie sono quelle personali dei due protagonisti, o principalmente del protagonista, che è il fratello Roberto Monte. E Auschwitz è appunto la prato finale di questo viaggio, e che rappresenta una sorta di epifania, assume un valore simbolico perché tutto il dolore che è stato raccontato nei minuti precedenti, quindi durante il viaggio, dolore personale, viene momentaneamente sospeso nel momento in cui si giunge in questo luogo, che è forse per eccellenza il luogo del dolore universale, no? Quasi paradossalmente il dolore che quel luogo ancora porta con sé ha un effetto quasi lenitivo sul dolore personale, che quindi viene sospeso di fronte a quello che è stata la tragedia che ancora caratterizza quel luogo. Quindi è una storia molto personale, che però va a intrecciarsi, diciamo, con la memoria e con il significato tristissimo che ancora oggi ha un luogo come campo di concentramento di Auschwitz. E quindi abbiamo deciso di scegliere questo film per appunto la ricorrenza del giorno della memoria, e stasera saranno con noi durante l'evento Facebook che precederà, poi seguirà la proiezione, sia il regista Danilo Monte che il protagonista, suo fratello Roberto, che potranno raccontarci ancora di più su questo loro viaggio e su quello che il campo di concentramento di Auschwitz rappresenta e ha rappresentato per loro. Le modalità per seguire l'evento invece quali saranno, al di là delle dirette Facebook prima e dopo il film? Allora sì, si partirà appunto alle 21 con la diretta Facebook e dopodiché si potrà, tramite sempre la nostra pagina sul sito di OpenDDB Distribuzione dal Basso, trovare il link per accedere alla proiezione tramite sempre il pagamento di un biglietto. E noi appunto lasceremo il tempo agli spettatori di vedere il film, ci ritroveremo quindi subito dopo sempre su Facebook per la nostra consueta diretta post film con Q&A, quindi domande agli ospiti, sperando poi che ci sia anche un coinvolgimento da parte dei nostri spettatori. Certo, assolutamente. Grazie mille Andrea per averci raccontato da più vicino questo nuovo appuntamento di Kinodromo e ci vediamo tutti questa sera allora. Grazie mille a voi, a presto. Ore 12:53 appena scoccate, e torniamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 con Minerva e Rachele Coppaloni alla voce e alla regia, dopo aver ascoltato No Love Lost in edizione, diciamo, rimasterizzata del 2010 dei Joy Division. Il brano, appunto questo brano che abbiamo appena sentito, della band britannica, ce la posso fare, forse ce la faccio a non intrecciarmi ogni due parole. Comunque, questo brano della band britannica capitanata da Ian Curtis descrive perfettamente, attraverso l'ispirazione al romanzo La casa delle bambole, di cui tra l'altro cita anche qualche passo nelle poche parole che ci sono in questa canzone, descrive perfettamente la realtà dei campi di concentramento attraverso una sua parte fondamentale, cioè proprio il nome Joy Division. In effetti, il nome della band è proprio la traduzione del termine tedesco, e non ve lo leggo neanche perché è una parola infinita. Comunque, questo termine tedesco sta a significare proprio i bordelli presenti all'interno dei campi di concentramento. Quindi diciamo che la memoria a quegli anni così crudi è ricordata già solo dal nome della band, e appunto che ci ha permesso di continuare a parlare della giornata della memoria, che si terrà proprio il 27 gennaio, quindi fra qualche giorno, anche attraverso la musica, oltre che grazie al Kinodromo, come è avvenuto prima. E detto ciò, direi che possiamo anche voltare pagina, anche se sicuramente torneremo a parlare di questo importante argomento, ma voltiamo pagina e passiamo alla nostra agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi che si terranno proprio oggi, lunedì 25 gennaio. Iniziamo con un appuntamento organizzato dalla Keats Shelley Memorial House, che oggi organizza dalle 19:30 alle 21 l'evento Un sogno di John Keats, una lettura spirituale. Poiché il 2021 segna il 700° anniversario della morte di Dante, oltre che il bicentenario della morte di Keats, Giorgio Verola effettuerà una conferenza in italiano per esplorare le connessioni tra questi due grandissimi poeti. E tra l'altro, poiché proprio oggi 25 gennaio ricorre anche la Byrne Night, in onore del poeta romantico scozzese Robert Byrne, invitiamo i partecipanti, quindi invitano appunto la Keats and Shelley Memorial House, invitano i propri partecipanti a gustare un bicchiere di scotch durante la presentazione, che mi sembra una cosa molto carina. L'evento sarà dal vivo e i partecipanti dovranno registrarsi in anticipo. Dalle 17 alle 19 la Fondazione Gramsci Onlus organizza il dibattito L'Europa del Novecento, una storia. La diretta è sia sulla pagina Facebook della Fondazione Gramsci, sia sul loro sito, quindi www.fondazionegramsci.org. La presentazione del volume di Francesco Bartolini, Bruno Bonomo e Alessio Gagliardi, a cura di Leonardo Rapone, edito da Carrocci proprio nel 2020. Si parteciperà all'incontro anche Simone Neri Serneri, Katia Papa, Silvio Pons e Giovanni Sabatucci. E concludiamo la nostra agenda degli appuntamenti con un nuovo ciclo di incontri della Confraternita dei Lettori, coordinato da Francesca Zambito. Il gruppo di lettura, che si riunisce, o meglio che si riuniva fisicamente presso la Confraternita dell'Uva, si cimenterà ogni mese nella lettura e nell'approfondimento di un editore indipendente. Ecco quindi che prende il via la Uprising Edition. Uprising come un disco di Bob Marley, ma anche un termine che rimanda a rivendicazioni, lotte, minoranze che alzano la voce. Con le letture condivise si viaggerà su direttrici ampie, ma con un'attenzione speciale a quelle voci meno ascoltate. L'appuntamento di oggi è il quinto appuntamento e si volerà fino alla Nigeria con il libro Quando un uomo cade dal cielo di Leslie Neka Arima, edito da Sam Libri. L'appuntamento è alle 19:00 online su Zoom e potete trovare tutti i contatti appunto sulle pagine della Confraternita dell'U. E E sono già le 12:57, quindi siamo arrivati al momento dei saluti finali. Io ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici per la vostra attenzione e ci vediamo, ci sentiamo, anzi, già domani, sempre da mezzogiorno e mezzo alle 13, per questa mezz'oretta insieme di diretta. Io vi auguro una buona giornata e un buon pranzo. A risentirci a domani. Ciao a tutti e a tutti da Rachele.